Mentre Federico Pagliarini ha anche un'attività artistica che si è sviluppata in altre direzioni e su questo magari speriamo un giorno di averlo con noi in radio. Intanto ci ha mandato questa passacaglia della vita che a quanto pare gli ha poi creato varie disavventure successive, quindi secondo me ascoltare tutta la puntata di oggi è un atto di coraggio, lo capirete subito dopo le primissime note di questa bellissima del resto passacaglia, e quindi aggiungiamo all'ascoltatore attento e all'ascoltatore esigente anche l'ascoltatore coraggioso, che è quello che ci seguirà fino alla fine di questa puntata 323. Come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire? Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. In un sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. I giovani putti e gli omini tutti, tutta una finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. I sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutta da finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire. E mentre aspettiamo questa cosa, che prima o poi arriverà per tutti, vi faccio sentire invece un nuovo disco che ci hanno spedito i Boom Rush Promotions, che si intitola Green Banana dei Dutch Chando. E un gran pezzo. She now one green banana. She now one green banana. She now one green banana. She no one green banana, hey, she no one green banana. toda la semana. She no one green banana. Hey, she no one green banana. Oh, she no one green banana. Y es un hombre lo que quiere toda la semana. Conocí a esta piba el otro día. Mujer sencilla, que más yo quería. Bella por dentro, por fuera cultural. Me parecía a mí fuera de lo normal. Conocí a esta linda muchacha. No quiere más chango que abuse y maltrata. Busco un hombre que la complazca entera. Que le importe lo de dentro y también lo de fuera, sí. She no one green banana. Hey, she no one green banana. Oh, she no one green banana. Y es un hombre lo que quiere toda la semana. She no one green banana. Hey, she no one green banana. Oh, she no one green banana. Quiere toda la semana. Ella no quiere jovencito, ella quiere un hombre de verdad. De eso no quiere nada. Ella no quiere niña, todo lo que tenga que cuidar. Ella quiere un hombre que la quiera y la sepa valorar. Es una mujer de verdad. Ella quiere un hombre que la bese y la ponga a gritar. Hey, hey señorita, cada vez que tengo yo contigo una cita, siento que tengo mariposa en la barriguita. La sonrisa de la cara nunca se me quita. Cosa bonita. Y conocerte, detener el tiempo para quererte, dedicarte mil canciones y sorprenderte. Me llevas al cielo con solo verte. Ay, qué suerte, na na na. She no one green banana. Hey, she no one green banana. Oh, she no one green banana. Y es un hombre lo que quiere toda la semana. She no one green banana. Hey, she no one green banana. She no one green banana. Es un hombre lo que quiere, ey. Ella es sencilla, ella es preciosa. Ella siempre luce mejor que en la ronza. Ella es tremenda, ella es curiosa. Ella sí le gusta como le hago la cosa. Puede tener la llave de mi corazón. Pa' quererte no hace falta autorización. Canciones de amor pa' ti tengo un montón. Porque eres mi reina y yo soy tu león. Dale pa' allá, niñato, búscate la vida. ¿Tú qué te crees que soy tu madre aquí o qué? She no one green banana. She no one green banana. She no one green banana. Es un hombre lo que quiere toda la semana. She no one green banana. Hey, she no one green banana. Oh, she no one green banana. Y es un hombre lo que quiere toda la semana. E dopo questo Green Banana scritto da Antonio Fernando e Bethancourt Sosa, vi volevo far sentire questo. L'angolo della menzione. Solo per dirvi che in realtà questa settimana non succede niente. Cioè, abbiamo passato Ferragosto, ci siamo fatti le nostre arrostolate al sole oppure no, ma questa settimana non succede niente, per cui niente menzione. E dunque andiamo avanti con la trasmissione. Cosa abbiamo? Abbiamo la nostra Chiara che è andata in giro per la sua solita rubrica Fuori Porta. Fuori Porta. Ciao Stefano, dunque visto che sono un po' in ritardo perché ho sottovalutato l'assenza di traffico romano, adesso per mettermi un po' avanti intanto ti dico che cosa sto andando a vedere in questa mia estate completamente erratica in cui schizzo da un posto all'altro senza una ratio. Sono, come dicevo, di nuovo a Roma e sto andando al Museo Carlo Bilotti, che è all'arancera di Villa Borghese, a vedere una mostra che penso sia nei nostri interessi per varie ragioni, che si chiama Le altre opere, artisti che collezionano artisti. E abbiamo parlato di collezioni con Lorenzo Balbi nelle puntate scorse e noi stessi siamo collezionisti di nostri amici, colleghi o anche totalmente sconosciuti artisti che però apprezziamo, e quindi mi sembrava interessante andare a vedere questa piccola cosa che tra l'altro ha tra gli artisti che sono esposti uno dei nostri amici, delle nostre mascotte artistiche, che è Pino Boresta. E però dimmi qualcosa anche tu, perché sennò questo sembra un po' un monologo. Stai con me ancora. soltanto un attimo di nostalgia, oppure per un attimo e poi vai via. E tu parli, parli, parli di cose che passano, e poi sogni, sogni, sogni che poi svaniscono. Stai con me, ci stai o no? Ci stai un attimo, un giorno? Ci stai per essere ancora mia? Ci stai per non andare via. E tu dormi, dormi, mentre i miei sogni crollano. E tu dormi, dormi, e i sogni poi si scordano. Vabbè, mentre aspettiamo che tu ti svegli dal pisolino pomeridiano, diciamo che cos'è il Museo Carlo Bilotti. Il Museo Carlo Bilotti è un museo che è stato fondato a partire dalla collezione appunto di Carlo Bilotti, che era un industriale nel campo della cosmetica e che ha donato una collezione abbastanza ricca, che quindi è una collezione permanente e che si trova all'interno dell'arancieria di Villa Borghese, che è un posto molto bello. Tra l'altro il percorso per arrivarci vale assolutamente la pena, perché si fa una passeggiata nel parco all'ombra, al fresco, si prende anche un bel gelato. Invece la mostra Le altre opere, artisti che collezionano altri artisti, è un'iniziativa a cura di Lucilla Catania e Daniela Perego, è un progetto iniziato nel 2018 e che viene portato a termine nel 2020 con 550 opere esposte in 5 musei del sistema Musei Civici di Roma: Museo Carlo Bilotti, Arancera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo di Roma in Trastevere, Galleria di Arte Moderna e Museo Napoleonico. Al Museo Carlo Bilotti dal 27 febbraio, poi doveva essere fino al 29 marzo, ma è stata prorogata per via del solito Covid. Vediamo, il primo è non so proprio come si legge, H2Deru oppure H2Deru, vate la pesca, mi documenterò, non lo conosco, mi sembra evidente, Giovanni Albanese, Alessio Ancillai, Sonia Andresano, Paolo Angelo Santo, Andrea Aquilanti, Gianni Asdrubali, Alia Saf, Paolo Assenza, Laura Barbarini, Sara Basta, Angelo Bellobono, Jacopo Benci, Simone Bertugno, Arianna Bonamore, Pino Boresta, Marta Boiden e Aurelio Pulzatti. E la mostra è organizzata così: ognuno di loro è presentato con una propria opera e poi accanto alla propria opera ci sono le opere degli artisti che lui colleziona o forse alcuni degli artisti che lui colleziona e che ha selezionato per l'occasione. C'è anche una breve spiegazione che dice perché ha scelto questi e non altri. È carina la cosa. Io adesso ne metterò anche qualcuna sul blog, e una in particolare ho scelto, è di Werther Germondari e si intitola Dio, ma l'ho scelta non solo perché magari l'ascoltatore attento riconoscerà una qualche affinità con un'opera del nostro assente che non risponde e che non meriterebbe ora di essere citato, ma anche perché mi sembra abbastanza evidente che si trattasse inizialmente di una radio. Ci sono anche, c'è scritto 104 Dio, secondo me i 104 erano tipo gli FM e Dio è la fine di radio, quindi in omaggio a noi, eccoci qua. L'opera è stata scelta da Ali Assaf, fa parte della sua collezione. Ali Assaf, artista iracheno che ha iniziato a collezionare fin dagli anni 70 opere d'arte di artisti italiani e non, con l'intenzione di creare un museo nel suo paese d'origine, l'Iraq, che include i lavori di numerosi autori contemporanei di diverse nazionalità. Io non ho ancora visto tutta la mostra, però devo dire che questa collezione, che ha un'impronta di intenzionalità forse più forte rispetto ad altri che magari hanno semplicemente messo insieme i propri amici, mi sembra molto interessante. Anche l'opera di Ali Assaf è interessante, molto bella. Lui ha tradotto con delle tele, con i caratteri iracheni, quattro versi del canzoniere di Francesco Petrarca. Pace non trovo, et non ho da far guerra, e temo, et spero, e tardo, et sono un ghiaccio, et volo sopra il cielo, et giaccio in terra, et nulla stringo, et tutto il mondo abbraccio. Tal mai in pregion, che non m'apre né serra, né per suo mi riten, ne scioglie il laccio, et non m'ancide amore, et non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. Veggio senza occhi, et non ho lingua, et grido, et bramo di perir, et cheggio aita, et ho in odio me stesso, et amo altrui. Pascomi di dolor, piangendo rido, egualmente mi spiace morte et vita. In questo stato son, donna, per voi. Che è sta roba? Nel frattempo vedo che Pasquini ha visto tutti i miei messaggi e li ha sentiti, perché c'è la doppia spunta blu, ma continua a non rispondere. Io mi sento veramente sempre più sola e questo è un po' la sensazione del visitatore medio davanti all'opera, no? Questa sensazione di solitudine e a volte di estraneità. Eccomi, stavo dormendo, adesso mi sono svegliato. E anche Angelo Bellobono è un ottimo artista, è un pittore fantastico, mentre invece Werther Germondari aveva vinto il premio della performance di Molinella, era arrivato, se non sbaglio, al terzo posto, vincendo un premio in denaro al premio della performance di Molinella, che avevo organizzato insieme ad Anna Rosa Callegari, se non sbaglio nel 2004, forse nel 2005. Ma è anche lui un artista interessantissimo. Che opera aveva portato? Cioè, che opera c'è di Werther Germondari? Ma poi da quante ore sei lì dentro? Finalmente mi risuona qualcosa. Cominciavo a sentirmi smarrita solo qua dentro da circa un'oretta, mentre aspetto pazientemente che tu ti svegli. L'opera di Germondari l'ho descritta prima, ho detto anche che la mandavo attraverso il blog, quindi adesso non la torno a dire, perché sennò il nostro ascoltatore è attento ed esigente, magari si indispone, poi ti riascolti i vocali. Non lo so, io sto capendo quasi niente, forse perché mi sono appena svegliato. Tutto questo sono andato a riascoltare cose, la descrizione di Werther Germondari, e obiettivamente non si capisce neanche se è un quadro, un poster, una roba radiofonica, audio. Ah no, è una fotografia quella di Germondare, è una fotografia dove lui ha ripreso, secondo me, è una mia deduzione, solo parte di una scritta, ma io confidavo che il nostro ascoltatore attento andasse a vedere poi le foto del blog, non ci vanno? Molto bene, dunque su www.coxospaziale.blogspot.com scoprirete di che cosa stiamo parlando, giusto? Diciamo che c'è anche questo problema che mi arrivano adesso i tuoi messaggi con un certo delay, perché forse non c'è nemmeno tantissimo campo e quindi il monologo ovviamente è sempre un po' meno entusiasmante del dialogo. Comunque, caro bello addormentato, siccome la cosa qui si è anche un pochino dilungata, andiamo a vedere che cosa ci propone Pino Boresta. Ah certo, il fantastico Pino Boresta. Allora, Pino Boresta, il suo fil rouge è legato alla parola, ci intrattiene con una lunga spiegazione e anche citazioni dotte sui motivi di questa scelta, ma io non mi dilungo, al massimo possiamo mettere una foto anche di questa spiegone. Sta di fatto che ci sono delle opere che hanno a che vedere con la scrittura. Lui ha portato I Don't Give Up, diciamo un dipinto in cui invece poi progressivamente si perde in effetti d'animo. La cosa forse più carina, anche se abbastanza facile, però insomma colpisce, è che c'è un bel cartello con scritto via Facebook, un cartello proprio segnaletico. Mettiamo sul blog anche questo magari. Però volevo chiudere proprio su questa della collezione di Pino Boresta, che si intitola Artista sarai tu. È di Nello Teodori ed è un libretto a china, anche molto, come dire, molto curato esteticamente, e però io niente, non mi arrendo, rimando alle foto. No, hai ragione, è difficile monologare davanti alle opere d'arte, anche perché appunto io penso sempre a chi ci ascolta e mi chiedo quanto possa arrivare di quello che noi raccontiamo nel momento in cui stiamo appunto descrivendo una mostra che loro non stanno vedendo, cioè che il nostro ascoltatore non sta vedendo, che è appunto la difficoltà di parlare di arte contemporanea in una radio. Vabbè, speriamo almeno tra un pisolino e un'assenza di campo di avere un minimo incuriosito l'ascoltatore, quello attento sicuramente, diciamo soprattutto quello esigente, e magari anche un nuovo aggiunto ulteriore che potrebbe essere l'ascoltatore distratto. In ogni caso ricordiamo il sito web per vedere le foto delle opere di cui abbiamo parlato, www.coxospaziale.blogspot.com, e se qualcuno volesse in extremis addirittura andare a vedere il Museo Carlo Bilotti, la mostra è ancora aperta fino al 23/08/2020 e altre informazioni sul Museo Carlo Bilotti, che comunque merita una visita anche di per sé e quello resta sempre lì, le potete trovare su www.museocarlobilotti.it. Spaziale. Sono Francesca Pasini e state ascoltando Coxo Spaziale. Paesaggi spaventosi. E dunque ringraziamo la nostra Chiara Pergola che ci ha fatto visitare virtualmente questo museo Bilotti, e che naturalmente appunto troverete le sue foto da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, così potrete appunto vedere visivamente anche di che cosa parlava, e come giustamente dice lei: chi dorme non piglia pesci. E quindi io mi scuso per avere dormito mentre lei era al museo, ed effettivamente non ho pigliato alcun pesce, se non il nuovo singolo di Alicia Keys. Cause I'm so, so done. Got in my tongue, holding me back. I'm living the way that I want. Cause I'm so, so done. Fighting myself, going through hell. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I lost control over all my energy. Done so much damage to my heart. I've given in, I've changed my identity. I didn't mean to go so far. Going through hell, I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. Living away on a high lake in the way. Oh no. People keep changing faces while I'm so jaded. I face it, I think I'm fading. I'm taking back. No. Myself going through hell. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. It's the bottom of it. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Io devo dire che ho un debole per Alicia Keys e dunque posso fare anche in una trasmissione di arte e teatro, posso anche fare questo coup de théâtre dove vi faccio sentire due pezzi di Alicia Keys uno dietro l'altro. Questo, quello di prima era So Done, che è un pezzo che è uscito, se non sbaglio, tipo 2 giorni fa, e questo invece è Underdog, ma nella versione acustica che ha postato su YouTube qualche giorno fa. Like a prayer. My hope that we remember how resilient we are and how we defy the odds. I'd like to dedicate this song to all the first responders and medical professionals that are risking their life to keep us safe. We're so grateful. Ooh. walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They say, oh, in a moment, yeah, but always fail to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, people on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Yeah. She's riding in a taxi back to the kitchen, talking to the driver about his children and wife, a first responder who is risking her life to give us a love and get it right on time. She looked in his eyes in a mirror and he smiled. One conversation, simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They say, oh, I never make it, but I was built to break the mold. The only dream chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, people on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Yeah. People on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping out your love. You'll find that soon enough you will rise up, yeah. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Fu edificato un muro lungo il 44esimo parallelo. Le famiglie che avevano un parente intento a sfanalare in autostrada al di là del muro non lo videro mai più! Il terziario fu rilevato dai gatti. Uno chef di Monzulo inventò il sashimi di lasagne. Le cover bands suonarono solo depressive black metal, technical black metal, un-black metal, Nintendo Core. I locali dove si faceva musica dal vivo furono sommersi da 12 metri d'acqua gelida. La SIAE introdusse l'obbligo della compilazione del bordereau anche per chi soffriva di bruxismo. I promotori degli istituti finanziari cominciarono a vendere gli sciocchi bands e le figurine delle Winx. I cinesi fuggirono senza farsi notare. La tangenziale fu bombardata dalla Royal Air Force. L'obbligo dell'uso del cellulare fu esteso anche alle ore di sonno. Le produzioni cinematografiche furono costrette a girare solo lungometraggi che non contenessero Brian De Palma. L'oroscopo diceva: le cose belle costano, occhio al portafoglio, nel pomeriggio dovetti chiamare l'autospurgo, 130 euro. A seguito di una circolare dell'Agenzia delle Entrate, i tornei di calcio giovanili divennero obbligatori con durata non inferiore alle 14 ore consecutive. Ingresso euro 39, più euro 4 di prevendita, più euro 6 per servizi, più euro 3 di gella sui gradoni di cemento, acqua solo naturale fuori frigo. Già finito? Hi, this is Crackerjack Kid. I had a seance with Ray Johnson last night, and he just wanted me to tell you that he has nothing to say. Hello from Croatia. Darya Mrđan is talking to you and sending this mail art message. Have fun with mail art. E mentre appunto il mondo dell'arte è fermo per Ferragosto, su Instagram due giorni fa, adesso non mi ricordo, forse gli inglesi non festeggiano Ferragosto, forse hanno una bank holiday Monday successivo. Comunque Damien Hirst sul suo Instagram scrive: I was desperate to buy this artwork from Maurizio Cattelan. Ero disperato e avrei voluto comprare questo lavoro di Maurizio Cattelan chiamato Comedian, che sarebbe il lavoro che ha suscitato scalpore quest'inverno, dove questa banana è stata attaccata con una riga di duct tape, di questo scotch usato soprattutto in America, questo scotch argentato molto potente. I asked my friend and curator Francesco Bonami to ask Maurizio if he had an artist proof he could sell me, or if he could make me a special one. Dice: ho chiesto al mio amico curatore Francesco Bonami di chiedere a Maurizio se avesse un AP, sarebbe un artist proof, una prova d'artista, cioè da vendermi, oppure se non potesse farmene una speciale. I offered to swap it for anything of mine, dice, ho anche offerto di fare uno scambio con qualunque cosa mia. Adesso forse non sapete, ma Damien Hirst malgrado Catalan costi tantissimo, Damien Hirst costa anche un attimino di più tendenzialmente. But sadly he said no, ma molto tristemente Maurizio ha risposto di no. Ah, e dunque Francesco si è sentito triste per me, and he made me this one as a present and sent it to me, e ha fatto questa banana, ha fatto quest'opera per me e me l'ha spedita direttamente lui, Francesco Bonani, gli ha mandato appunto una banana e una striscia di scotch. This is now on my wall and I love it. He said the banana has to point the opposite way. Ha ha ha. Dice così, adesso questa banana è sul mio muro e io la adoro. La banana naturalmente deve puntare dalla parte opposta rispetto a quella di Catalan. Ha ha ha. E dunque grazie a Francesco e grazie per averci provato. Maybe I should call you Francesco Bananami from now on. Love, big brother. Dice, d'ora in poi forse ti dovrei chiamare Francesco Bananami. Con tanto amore, questa dedica, fratello, chiocciola, The Bonamist. The Bonamist è l'account di Francesco Bonami, in cui appunto lui prende per il culo il mondo dell'arte con questo suo inglese abbastanza, con questo accento italiano piuttosto marcato e anche un po' divertente. E niente, per cui se vi state annoiando potete sia andare a vedere l'Instagram di Damien Hirst che andare a vedere naturalmente l'Instagram di Francesco Bonami. Entrambi sono in inglese, per cui dovrete un po' rispolverare il vostro inglese, mentre invece se non potete fare nessuno dei due potete andare nel canale YouTube del Mambo, dove nell'ultimo video dei due minuti di Mambo, di cui abbiamo parlato abbondantemente ultimamente, c'è Gianfranco Baruchello che rispolvera invece uno dei suoi lavori degli anni 80, e devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere Gianfranco Baruchello in ottima forma, perché effettivamente comincia a avere qualche annetto anche lui. Messages they sent me. Now that's assuming that they meant me. That just left me feeling empty. Things are changing now so quickly. I feel that history has picked me. I was a fool to think you'd miss me. Ain't it the truth or is it just me? Raise a glass now for everyone. All God's children under the sun. Raise a glass now for only me. Cold and broken, lonely me. So wealthy, too young to feel unhealthy, but I'm too old to understand that selfie, too far gone for you to help me. Try and talk less and listen more, try and open every single door, try and move the people on the floor, try and play the game, not keep the score. Raise a glass now for everyone. All God's children under the sun. Raise a glass now for only me. Cold and broken, lonely me. spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale. Ma torniamo di nuovo da Chiara Pergola, che visto che siamo alla fine della trasmissione, presumo abbia da dirci la sua parola, giusto? Ebbene sì, caro Stefano, abbiamo anche oggi la parola della puntata, e dal momento che in questo caldo ferragosto romano ho attraversato paesaggi spaventosi, ti leggerò la parola paesaggio di Chiara Ferrin, che poi, se il nostro ascoltatore attento è veramente attentissimo, potrebbe, collegandola alla parola della puntata scorsa, cominciare forse ad intuire che cosa sono queste parole che stiamo leggendo. Ma sveleremo questo segreto prima della fine dell'estate. Ci dice dunque Chiara Ferrin: il paesaggio è una porzione di territorio delimitata da una finestra, una soglia o un battito di ciglia. Si usa per riferirsi al paesaggio naturale e al paesaggio antropizzato. Spesso quest'ultimo si sovrappone al primo, generando paesaggi urbani permanenti all'interno dei quali sono disposti, in un ordine prestabilito ma non sempre ragionato, strade, case, industrie, giardini, inceneritori, scuole, ripetitori, viali alberati, monumenti. Possono scomparire alberi e crescere condomini in un battibaleno, o crearsi in mutazioni nei campi che da verdi diventano grigie lingue d'asfalto. Questo particolare fenomeno è definito progresso. E chissà che cosa ne penserebbe di tutto questo il sindaco di Sutri, ma noi non glielo chiederemo. Chiudiamola qui. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Not even looking for no Superman. So why is it that I got an empty hand? Took a bullet to my heart, I'm bleeding out. Still you're the only one I ever wanna hold somehow. Said you'd take me on your jet plane, but I never even saw them lights, babe. Guess I was looking for a hero. Boy, you couldn't even keep it real though. Now you got your life, you got your aim. Rumor has it, baby, that you're doing just fine. In my gold dress, looking like such a mess. Tonight, and I go drinking in the park, but I guess I'm not a kid no more. I spend all of my money on love, like it's a liquor store. Maybe I just miss you, baby. Chip frills don't save me no more. I'm drinking in the dark, hearted shit. Get so H-E-A-V-Y. You said you'd catch me like a butterfly. How can you love someone and watch him die? I'm aware I got no halo around my head. You're not my blood, but you were family like mom and dad. How could you see me drowning and not even stop it? Even wish you were the one that fought me and caused it. Now I'm the one that holds an empty hand. I guess you never were my Superman. You got your life, you got your end. Rumor has it, baby, that you're doing just fine. In my gold dress, you gave me at your bed. So fuck tonight, and I go drinking in the park. But I guess I'm not a kid no more. I spend all of my money on love, like it's a liquor store. Maybe I just miss you, baby. Chip thrills don't save me no more. I'm drinking in the dark. How did you get so H-E-A-V-Y? We are a modern crime. Didn't want us to be nothing more than famous, famous, famous, so helpless. We are the modern crime. Didn't want us to be nothing more than famous, famous. But God loves so heartless. And I go drinking in the park, but I guess I'm not a kid no more. I spend all of my money on love, like it's a liquor store. Maybe I just miss you, baby. Chip frills don't save me no more. I'm drinking in the dark, how did shit get so H-E-A-V-Y?